detto cuffo? M.A.U. morto sì. Trommi, trommi. Chi ti sei dato un gucco? Oggi non è entrato nessuno, manco un cagnolino. Ah, che sono tutti impegnati, so. Sì, sotto le frische frasche. Bebe, guarda, Zucchi, Luca non sente sbannuta, chi d'altro non m'attesi? Tutti venduti si sono. Se tu avevi atteso il nostro, per aiuti sempre, sei più dove vuoi stare. Ma l'altro no, non aveva tempo, lo ha acceso mezz'oretta fa questo. E tu non hai mai tempo. Vabbè, tu non hai mai tempo, ma non ti devi lamentare. Non puoi restare sempre i roghi, bisogna andare pure a casa, ogni tanto. Anche tanto quando fa tempo, a tempo buono gli anda, chi dà. Ma se lo tempo ai roghi, lo dovrebbe da. Non dirne a nessuno che ci gosino. No, sempre il tempo vivo, è tutto l'altro tempo. Allora non ti devi lamentare, ti non fai manco l'anima. Ehi, capito, buro Luca, vi. Ah, c'era? Luca c'era. Ma l'ho sentito. Allora, no, adesso sto parlando là io. E chi c'era di là, perché? Ah? Chi c'era di là, perché? Tra Palermo, ma il Zezzo e Giunino lì, a Pitoneato, va bene. Guarda che io sono impegnato, non posso venire.